I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Per i paesi dell'OPEC, i produttori di petrolio, i grandi produttori di petrolio, è stato quasi uno shock. Il periodo prolungato di ribassi dei prezzi del greggio si è riflesso in una caduta sotto i 1.000 miliardi di dollari, per la prima volta dal 2010, dei ricavi cumulati dalle vendite del greggio. Un vero shock per questi paesi abituati a 1.000, 1.200, 1.500 miliardi di ricavi ogni anno grazie al caro della benzina alla pompa e soprattutto grazie ai consumi che crescevano. Ormai il mondo sta cambiando anche in questo senso, un po' la scoperta dello shale gas in America, la produzione di greggio attraverso le pietre e un po' l'overproduzione, la sovrapproduzione di petrolio da parte e degli Stati Uniti e anche dei paesi dell'OPEC ha creato sì un collo di bottiglia che sta penalizzando fortemente dal mondo arabo fino al Venezuela, altro produttore di petrolio. Si chiede a gran voce di poter tagliare la produzione, ma finora c'è un fronte compatto, soprattutto dei paesi arabi, che dice di no. Per noi che cosa significa? Significa che probabilmente ancora per un po' di mesi dovremo avere dei ribassi del prezzo della benzina alla pompa. Certamente per i produttori il danno è limitato, basti pensare che secondo alcuni calcoli il petrolio, che oggi naviga intorno ai 60 dollari, costa alla produzione poco più di un dollaro e mezzo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Cosa ci deve spaventare di più, il muro ideologico che blocca il negoziato Grecia-Europa o il muro fisico, 4 metri d'altezza per 187 chilometri, che l'Ungheria vuole erigere ai confini con la Serbia per bloccare i migranti? Entrambi, direi, anche perché su tutti e due sono figli di questa disgraziata stagione europea che ha perso il senso di comunità e di solidarietà. L'Eurogruppo di oggi si occupa della mediazione tra l'esigenza dei creditori di Atene, che sono Fondo Monetario Europa, di avere un segnale forte su riforme incisive da parte del pagatore e di Atene invece di avere un allentamento nelle politiche di rigore attraverso un segnale concreto di allungamento o di riduzione secca del debito. Intanto i tassi sui bond greci sono da default e sui mercati qualcuno ricomincia a parlare di rischio contagio. Il ministro Padoan lo ha escluso oggi categoricamente e anche oggi ha detto che siamo più solidi che non nel 2012, quando la situazione rischiava di precipitare. La Grecia, dice Tsipras, è allo stremo, ma dalle statistiche economiche intanto arrivano segnali discordanti, come quello della vendita di auto di grande cilindrata e superlusso cresciute nei primi 5 mesi dell'anno di quasi il 16% in Grecia, una performance che non ha uguali in Europa ed è 5 volte tanto quella, ad esempio, della Germania. Sono dati che certo fanno riflettere. Quanto al muro fisico che Orban, il personaggio più pericolosamente nazionalista tra le cancellerie europee, vuole costruire ai confini con la Serbia, è un segnale anch'esso dei guasti che questa stagione di egemonia del pensiero populista e demagogico sta producendo nella difficile ma straordinaria costruzione del percorso ideale dell'Europa. Con una leadership meno gretta si risolverebbero meglio sia la partita greca sia quella dell'immigrazione, questo è certo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.